Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. L'ospite di oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è un uomo, diciamo intanto un uomo abituato a fare delle... queste delle istantanee degli altri, ma ora gli toccherà farle a lui, qui inizio di puntata. E come si potrebbe definire in tre aggettivi? Curioso, appassionato, sognatore. Che belli, molto un ritratto direi, naturalmente romantico con tutti questi aggettivi. Lusinghiero, hai stima di te? Credo proprio di sì. Sì, ma sono ipercritico. Quello ci vuole sempre, no? Poi l'autoironia. Al limite della tortura. Quindi abbiamo detto curioso, appassionato. Sognatore. E sognatore. Però poi i sogni insomma, li realizzi spesso e volentieri, no? Anzi, diremmo che Guido Arari, uno dei più grandi fotografi italiani, più grandi ritrattisti italiani, qualcuno dice un mito della fotografia italiana, soprattutto in ambito musicale. Perché? Perché Guido Arari è anche critico musicale, ma è riuscito, a proposito di sogni, a mettere insieme le sue grandi passioni, cioè la fotografia e la musica, a farne un unico linguaggio, a farne il suo lavoro. Insomma, no? Guido Arari, dicevamo appunto, uno dei più grandi fotografi italiani. Perché scuoti un po'? Non sei... cos'è la... Non mi riconosco la dovuta modestia, sì. Che uno si sente sempre in dovere di... pudore. Però bisogna dire di Guido, poi a proposito di definizioni volevo dire anche un'altra cosa, siccome ho avuto modo di conoscerlo, Guido Arari, rispetto ad altri fotografi che hanno più quell'aria da... a volte sono più quasi glamour, più VIP loro degli stessi VIP che ritraggono, hanno sempre quest'aria un po' supponente anche nel modo di trattare, no? Le persone, i soggetti stessi che fotografano, non so, ho questa impressione, non dico tutti, magari mi sbaglierò, tu annuisci, Guido? Sì, non vuoi commentare però. No, commento, perché purtroppo ci sono fotografi che si ritengono giustamente artisti, ma io preferisco non cedere alla tentazione di pensare che un po' della polverina dorata delle star che fotografo tua, mi rimane addosso, o addirittura sia merito mio, men che meno. Per cui preferisco sempre mantenere una posizione di cauto osservatore, di appassionato, di fan, anche fuori dall'ambito musicale, perché si può essere anche fan di uno scrittore. Certo. Sì, effettivamente un fan che è l'artista, che se la mena. Ed è effettivamente un po' quell'atteggiamento in particolare con questo artista che sto per nominare, che tu hai avuto con lui nei 20 anni più o meno in cui l'hai seguito, Fabrizio De André, no? Che forse è uno dei tuoi preferiti tra i personaggi che hai ritratto, che hai seguito. Però ne parliamo dopo, perché intanto bisogna dire dove è nato Guido Arari. Al Cairo d'Egitto. Harari, perché Harari inizia per H, perché non lo sapesse. Classe 1952, ma mi chiedevo, la tua mamma passava di lì per caso in Egitto in quel periodo? O no, i miei genitori italiani vivevano lì parte della comunità Egitto. Italiana, e poi la famiglia si è trasferita in Italia a metà degli anni 50, dove c'era una cospicua parte del resto della famiglia e quindi dall'età di... tre anni e mezzo ho vissuto a Milano. Quindi sei stato pochissimo in Egitto, sì. In realtà. Ho qualche vago ricordo. Che vaghi ricordi hai? Per esempio ho un ricordo a pochi mesi di vita di mio padre che mi faceva una foto, forse la cosa è... Beh, è rimasto guarda caso così, proprio quello di ricordo. Una premonizione. E quando vedo la foto ricordo esattamente la luce che c'era, che filtrava attraverso un berceau. Quello è forse uno dei primi ricordi che ho. E poi ricordi di bambino, in fondo, so, giochi, la visita alle piramidi, cammelli. Cose che poi difficilmente hai potuto rivedere qua in Italia, avrei visto poi nei tuoi viaggi. Ma si può dire perché i tuoi genitori erano in Egitto in quel periodo? Come mai questa scelta? Non so, di solito si migrava verso altri paesi in quegli anni. Ma mio padre lavorava lì, mia madre si occupava di me, quindi era... Figlio unico? Sì. Migliorare questa cosa ti... Accidenti, personalissima sta intervista, non me l'avevi detto. Questa cosa ti è, negli anni in qualche modo, ti ha segnato positivamente, negativamente o in modo indifferente, insomma, figlio unico? Non ho mai sentito la mancanza di un fratello. Stavo bene così, avevo il mio mondo, i miei giochi, le mie fantasie, e tanto mi bastava. cercavo sempre degli amici, ma ovviamente con cui condividere, ma il desiderio di un fratello non l'ho mai avuto. Quindi questa foto di cui hai il ricordo piuttosto nitido dei tre anni e mezzo, mm-hmm. è da lì secondo te che qualcosa ha cominciato a muoversi nella tua mente a proposito della fotografia, no, della tua passione? La mia passione è nata, credo, osservando mio padre, che non faceva il fotografo, ma aveva una macchina di quelle a soffietto, sì, diciamo pre-reflex. L'assemblata? No, come si chiama? No, aveva una Zeiss, sì. Con... Ah. E lui, un po' come, non so, chi ha visto il film Heimat di Edgar Wright, il primo ciclo, mio padre era un po' come lo zio che appariva con la sua macchina fotografica nei momenti salienti della vita della famiglia. E poi, tra l'altro, il film, di puntata in puntata, riassume gli episodi precedenti proprio attraverso le fotografie di questo zio. Quindi quando ho visto questo film ho riconosciuto mio padre, che aveva sempre questo gusto, quando ancora non c'era ovviamente il digitale, non c'erano le macchine col motore, si andava a scatto singolo, riusciva a cogliere con un occhio molto perfetto, molto organizzato, dei momenti della vita della famiglia. E quindi questo suo gusto nell'essere presente con discrezione, ma nei momenti importanti, l'ho poi fatto mio. Ho voluto cominciare già da bambino a giocare con questa macchina fotografica. Poi è nata la passione per la musica più o meno verso gli 8 anni. Tu qui sei piuttosto precoce, insomma, sì, no? Sì. Prematuramente. Beh, insomma, a 18-19 anni ho detto, beh, queste due passioni bisogna unirle. Quindi tu eri in Italia molto presto. Che giri hai fatto? Sei rimasto a Milano? Ti sei spostato? Sempre rimasto a Milano per quasi 50 anni. E proprio lì ho cominciato a, poi insomma, ragazzo all'epoca dell'università, a frequentare i concerti, le case discografiche, i giornali musicali, insomma, a cercare di trovare una strada che mi potesse portare a contatto con l'ambiente, gli oggetti del mio desiderio. Ma quello della fotografia, mentre studiavi all'università, lo hai coltivato come una tua passione da autodidatta, oppure hai fatto dei corsi? Non esisteva nulla all'epoca. Si poteva al limite andare a fare l'assistente a un fotografo di moda o di pubblicità, ma io ero abbastanza giovane, volevo assolutamente avere contatti con un mondo che in Italia esisteva da pochissimo, quello della musica rock soprattutto, era molto più, insomma, rodato all'estero. E per fare quello non c'era niente, insomma, nessuno che potesse, non c'erano fotografi che lo facessero o che facessero solo quello. E quindi mi sono formato sulle riviste inglesi e americane che compravo da ragazzo, musicali ovviamente, sulle foto dei libri di Annie Leibovitz, della prima Annie Leibovitz, e di altri fotografi, Jim Marshall, adesso non so chi possa conoscerli. Beh, chi è appassionato di musica sa benissimo di chi sto parlando. E poi in Italia c'era anche Giuseppe Pino, all'epoca, che era un grandissimo fotografo di jazz soprattutto, le cui foto, insomma, mi hanno parecchio ispirato. Storielle, storiacce. Roberta Giordano, sempre con voi qui, ascoltatrici e ascoltatori a Storielle, e ospite di oggi è Guido Arari, uno dei più noti ritrattisti italiani. Tra l'altro, tra tutti i soggetti, diciamo così, i personaggi illustri, importanti, che ha fotografato in giro per il mondo, in Italia per il mondo, ci sono, dicevamo, a proposito della sua passione musicale, che è anche critico musicale, Bob Dylan, Paul McCartney, Lou Reed, Joni Mitchell, poi tra gli italiani Pino Daniele, Vasco Rossi, Ligabue, Baglioni, Gianna Nannini, e dicevamo in particolare quello che ti sta più a cuore, Fabrizio De André, no? Non sbaglio se lo dico, Guido? No. Però riprendiamo prima un po' la tua storia. Quindi, nato al Cairo nel 1952, poi molto presto ti sei trasferito con i tuoi genitori a Milano, lì hai studiato e lì hai coltivato un po' anche l'ambiente della musica e della fotografia, insomma, mettendo insieme, dicevamo, queste grandi passioni, diventando un ritrattista soprattutto dell'ambito musicale, no? Sì, per diversi anni. Poi a un certo punto ho cercato di allargare, togliermi questa orizzonti, etichetta, perché avevo altri anche interessi. La pubblicità, la moda, foto istituzionali, sì, no? Sì, sì. Ma anche foto reportage sociali. Di altri ambiti, perché io sono onnivoro, quindi la musica è la mia passione da sempre, però mi piace l'arte, leggo tantissimo, i miei soldi li spendo in libri anche piuttosto costosi. E per esempio, che cosa leggi? Leggo soprattutto biografie e saggi, pochi romanzi. Biografie perché mi piace analizzare le vite di personaggi che mi attirano e capire i meccanismi che li hanno guidati attraverso, soprattutto attraverso gli errori. E i saggi perché, insomma, allargano la mente, poi li leggo un po' a scatole cinesi, cioè leggo un libro, questo mi apre 5-6 porte su altri libri e questi a loro volta leggo così e poi ne leggo 3 o 4 contemporaneamente. Come se fossero, parlando in termini tecnologici, dei link quasi, esatto, no? Esatto, sì, che sì, però sì, ti rimandano, è vero, ogni libro che leggi ti rimanda a mille altre cose, se hai voglia, tempo, la passione, eccetera. Come diceva Socrate, più conosci e più capisci di non conoscere, quindi esatto, ti viene questa sete, questa costante, voglia di, no, colmare delle lacune inesauribile. Sì. Dicevamo, quindi molte mostre, molti libri, sei venuto a contatto con moltissimi personaggi, ma quando è che hai capito che stava diventando veramente il lavoro della tua vita? Dicevo, ho cominciato verso i 18-19 anni a muovere i primi passi. Ho notato abbastanza rapidamente che poteva diventare qualcosa di interessante quando un musicista tedesco che nessuno ricorderà, si chiama perché è ancora vivo, Klaus Schulze, era un musicista elettronico, allievo di Stockhausen, credo, che faceva questa musica pazzesca con una montagna di sintetizzatori, che mi aveva incuriosito, apprezzò a tal punto le mie foto da usarle per le copertine di diversi dischi, chiamandomi poi anche a Berlino e a Londra per fare altre photo session. Copertine poi ne fate tantissime per altri artisti. Sì, album, certo. E quindi questo mi fece capire che, insomma, sei uno straniero e non solo il musicista di Noant apprezza le mie foto, forse c'è un mercato. Infatti poi a 22-23 anni andai a Londra nel periodo in cui c'era un embargo di concerti in Italia per via delle contestazioni più o meno pilotate dell'epoca, e quindi lì poi si aprì tutto il mercato straniero, quindi cominciai a lavorare con Santana, con Dylan, dicevi tu, anche Soft Machine, insomma gruppi, alcuni famosissimi, altri meno, però interessanti. Bei tempi, direi. Sì, poi collaboravo, ma bei tempi perché l'industria della musica ancora non si era chiusa a riccio, eliminando ogni possibilità di avere accesso agli artisti. Diciamo che sto parlando di un periodo antecedente al boom del videoclip, antecedente al boom dell'alta moda italiana nel mondo, che poi ha determinato tutta una serie di giornali che mescolavano glamour, moda, facendo colare la bava ai musicisti che volevano assolutamente apparire su queste riviste, e quindi proprio apparenza, di conseguenza a un certo punto non è più stato possibile avere accesso e conoscere i musicisti e documentare qualcosa che fosse vero, vivo e non creato da un marketing spietato che anzi voleva assolutamente nascondere la verità del personaggio, perché ovviamente non avrebbe venduto altrettanto bene. Quindi se tu dovessi dire un incontro fulminante nel tuo percorso è stato questo musicista tedesco Schulz, o poi ce ne sono stati uno? No, quello è il primo che mi ha fatto riflettere, come dicevi tu, sulle prospettive. Poi Frank Zappa è stato un altro, sempre conosciuto in quegli anni, Pino Daniele, Fabrizio De André con il tour di 30 anni fa con la PFM, è stato sicuramente un episodio importantissimo perché poi ha determinato una collaborazione che è durata fino alla fine. Anni, sì. E poi altri grandi, Lou Reed, Vasco, Baglioni, anche con cui ho realizzato un paio di libri e diverse copertine di dischi, addirittura un libro che nell'85 vendette 100.000 copie. Note di copie. Note, no? Sì. Ma è chiaro che, avendo un personaggio come te, Guido Arari, viene sempre voglia di farsi raccontare, proprio di istantanee, di farsi raccontare anche, no, degli episodi, degli aneddoti, le emozioni che questi personaggi ti hanno dato, delle cose che hai potuto cogliere proprio nel vostro incontro particolare, no? E tu vorresti sapere qualcosa. Che dici? O mi domandi qualcosa? Il personaggio, devo andare a ruota libera, che è piuttosto imbarazzante. Ma io ti direi di quello che in questo momento, così preso alla sprovvista, ti può venire in mente, qualche istantanea verbale, no? Invece, con la macchina fotografica. Allora, qualcosa di... dirò qualcosa per gli appassionati di musica e qualcosa per non. C'è la par condicio, quindi, sì. Ma, per esempio, è stato molto interessante conoscere Frank Zappa da vicino, andando 3 giorni a casa sua e quindi potendolo osservare al lavoro, per quello che mi ha voluto o potuto mostrare della sua vita familiare, con i figli che, insomma, stavano crescendo già con voglia forte di musica, di musica. Esatto. E quindi ho visto un po' le sue idiosincrasie, la sua paura di vivere al di fuori di questa fortezza, no? Quindi c'è chi è, diciamo, un artigiano, diciamo, del proprio lavoro, come lui, che nel tempo che non passava in tournée registrava un disco dopo l'altro, infatti era uno dei più prolifici. Esatto, ma non sempre con grandi livelli, con lo stesso una costante di qualità, però era totalmente immerso nella sua musica e poco altro. E invece, non so, magari incontrare Agnelli mi ha permesso di trovarmi davanti a una persona di un umorismo. Gianni Agnelli. Sì, Gianni Agnelli, l'avvocato, una persona che in due ore mi ha stordito con un fiume ininterrotto di domande. Lui, no? Ma lei ha conosciuto questo, lei ha fotografato quell'altro. Ed è stato veramente molto interessante. Insomma, poi ha prodotto anche delle foto a cui sono molto legato. Però privilegio. Dicevo che sono curioso, è quello di poter entrare nelle vite di altre persone in un modo che non è, diciamo, consentito ai più, e ti domandi come farai a creare un'immagine che non sia già stata fatta. E allora mi ricordo, non so, una volta con Lina Wertmüller, che è una persona, anche lei, dotata di grandissima ironia. Si capisce. Mi ricordo che mi fece vedere tutta la casa per offrirmi degli spunti. E a un certo punto arrivammo al bagno e mi disse: il bagno è la stanza che preferisco. Dico, anch'io, perché ci ho fatto delle grandissime foto, una per tutte, quella con Peter Gabriel. Sì, infatti mi chiedevo se fosse un bagno quello. Sì, era un bagno. E allora lei mi disse: va bene, facciamola qui. E c'era una vasca che campeggiava nel centro della stanza, stranamente, con vari oggetti molto curiosi. E allora dice: benissimo, mettiti nella vasca, fammi devo spogliare. E beh, certo, realismo. Senti, allora ritorniamo su Fabrizio De André, dicevamo, questo rapporto ventennale. Tu hai avuto modo veramente di seguirlo, di documentare degli aspetti anche molto riservati, intimi, no? della sua vita. Tra l'altro ricordo che Guido Rari ha dedicato una mostra recentemente a Genova, no? Per il decennale della morte. Sono stato uno dei curatori della mostra che è in corso adesso a Palazzo Ducale a Genova, e prima ancora ho curato tre libri dedicati a lui. Ma De André mi ha colpito perché ovviamente era uno degli artisti le cui canzoni si strimpellavano a 15 anni, 16 anni, e poi, insomma, i suoi testi erano sicuramente fuori dagli schemi, ed è un personaggio che non ho avuto modo di conoscere per molto tempo, finché 30 anni fa, in occasione della tournée con PFM, ci fu il contatto. Lui, un po' come diceva Sciascia, era un intellettuale, anche se avrebbe rifiutato l'etichetta, che sapeva parlare in maniera popolare e aveva una cultura mostruosa che riusciva a condividere anche con le persone più umili, parlando in maniera molto diretta. Non faceva venire meno il mio timore reverenziale nei suoi confronti, io mi ponevo sempre in posizione d'ascolto davanti a lui, però ci sono state molte occasioni di conversazioni anche interessantissime, perché poi era onnivoro e quindi poteva parlare di astrologia, come di televendite, di arte, come di agricoltura. Quindi un curioso come era un curioso, uno che se doveva piantare un chiodo leggeva due enciclopedie prima di farlo. Vuole sapere esattamente la tecnica, il modo giusto, migliore per... Ma tu hai detto una volta: nel crollo verticale dell'etica, nel degrado irreversibile della società italiana, le parole di Fabrizio, come quelle di Pasolini, restano le poche, forse le uniche, a infondere coraggio a chi vive controvento e rivendica un'intelligenza che è sempre meno moneta corrente. Tu ritieni di vivere controvento? Ma controvento vuol dire non seguire la corrente e inevitabilmente pagare anche un prezzo per vivere a modo proprio, insomma. Mi interrogavo, visto il grande successo di questa mostra di Genova dedicata a De André, il perché del suo successo, di questo successo che continua ininterrotto, anzi cresce esponenzialmente. Al di là delle belle canzoni, del verso finemente cesellato, penso che attiri più generazioni proprio perché è stato uno fuori dal coro, e credo che le sue parole siano molto importanti in questo momento cruciale, un momento in cui il paese non si indigna più. Che cos'è che ti fa indignare di più, Guido Rari? La mancanza di intelligenza, l'appiattimento generale della cultura, dell'educazione, dei valori. Che mi indigna molto quello che sta succedendo a proposito di Eluana, per esempio. Che un'intera classe politica, quasi, e la Chiesa pensino di poter decidere delle questioni private di una persona è terrorizzante. Penso, adesso non vorrei parlare solo di Eluana, però penso che se qualche giornale avesse pubblicato la foto di Eluana come oggi e non come era a 17 anni, tutto sarebbe cessato. Ci si sarebbe resi conto dell'assurdità di questo accanimento nei suoi confronti. Queste cose mi indignano. Hai detto che sei un sognatore, no? All'inizio, tra gli aggettivi, questa che vedi qua è la lampada di Aladino. Se tu dovessi dire che cosa desideri ancora per la tua vita, Guido Arari? Forse un po' più di serenità. Per te stesso, dici? Per sì, me ti manca un po' di serenità. E ovviamente per le persone che mi stanno vicino, e magari di vivere in una società diversa, un po' più attenta ai reali bisogni delle persone. È utopia o sei ottimista su questo? È utopia, sono molto pessimista su questo. Speriamo non fino in fondo. Beh, diciamo che la cosa non mi toglie il sorriso e la voglia di sognare, di credere, di andare avanti. Però sono anche consapevole che non c'è ritorno. Siamo su una china dalla quale non si torna più. Speriamo di no. Comunque, grazie Guido Arari. Mi dispiace di finire con una nota così, ma l'evidenza è davanti a tutti. Grazie Guido. Ciao. Grazie.